Sai, quelli lì erano gli anni dei tumulti, degli scatti di orgoglio tra studenti, anni di eventi dai tristi risvolti. La guerra era finita, la speranza era da poco iniziata. Un ingegnere aveva quella causa sposata. Creare un'isola laggiù in mezzo al mare, con una lingua che non era una naturale. L'isola delle rose era uno stato pronto a fiorire con le sue leggi da rispettare. Se la legge lo permetteva, ma quel grande sogno romantico agli occhi di una nazione creava solo malumori. E ben presto accadde che il sipario fu calato giù, l'isola dell'Adriatico chiuse per sempre, la piattaforma non è più sul mare, ma resta il suo fascino. Daria.